Adesso Massimo Gasperini, architetto, dottore di ricerca in scienze della rappresentazione, libero professionista. Massimo dice: mi occupo di progettazione estesa a tutte le scale di intervento. Sono fondatore e responsabile unico dello studio Archelab, laboratorio di architettura a Pisa. Passo la parola a te, Massimo, grazie. Grazie a voi, grazie Cristina, grazie Diego per l'invito a partecipare a questa bellissima trasmissione e anche a dare il mio contributo al più ampio dibattito del progetto Concerti di Dei Nazione nel Quinto Paesaggio. L'invito di Diego, per la verità, arriva in un periodo critico, certamente per tutti noi. Per me, devo dire, fertile nel pensiero di alcune questioni che vado sviluppando da alcuni mesi, sono impegnato nella scrittura di un prontuario, vi leggo il titolo, prontuario non pronto e non pratico e soggettivo per la sopravvivenza post-pandemica. Sono, diciamo, degli appunti che cerco di mettere per iscritto e anche di raffigurare attraverso il disegno, che è lo strumento che ci contraddistingue appunto per sveltire alcuni passaggi e per comunicarli e per renderli più agevoli. Vorrei leggervi quali sono gli assunti di questa scrittura, di questo progetto, perché poi riguardano in gran parte fondamentalmente quello che è il mio pensiero, soprattutto sul periodo e su qual è e quale dovrebbe essere il nostro ruolo di architetti per affrontare questa pesantissima serie di questioni. Scrivo: questo è il momento della reazione o della riflessione. Architetti, unitevi e apritevi alle alleanze. Pensate a un nuovo mondo come sistema di relazioni innovativi, di spazi nuovi e sostenibili. Luoghi da recuperare e rigenerare dalle vecchie città risorte. Utilizzate il pensiero utopico come strumento progettuale critico e privilegiate. Abbiate il coraggio di esporvi, di pentirvi degli errori fatti e degli errori che farete. Pensiero utopico negativo aggiungerei. Mi ricollego alle utopie pirate di Federico che appunto ha letto il testo precedentemente, dicendo che non c'è pensiero o progetto significativo che non aspiri al progresso, che non si incardini sull'energia utopica. D'altronde, osserviamo che non esisterebbero le maggiori opere dell'umanità senza l'ambizione, senza la propulsione alla visione. La visione e l'immaginazione possono costituire gli elementi essenziali per ripensare al futuro alla luce degli eventi attuali. Dobbiamo avere il coraggio delle nostre azioni, reagire attraverso le sostituzioni, gli adeguamenti, ripensare a un sistema di vita e di relazioni diverso. Dobbiamo semplificare le norme, non spetta solo a noi naturalmente, ma dovremmo essere in questo ben supportati e coadiuvati, rendendole più efficaci, snellire l'apparato burocratico, rendendolo meno farraginoso e direi contraddittorio. Sembrano proclami i miei, no? Reiterati e mai realizzati, ma credo siano i presupposti per una vera e propria piattaforma di ripartenza per ripensare a un nuovo modo di relazionarci in un sistema sconvolto, sconvolto innanzitutto dalla crisi climatica, di cui noi siamo in gran parte responsabili. Dobbiamo ripensare agli spazi pubblici, ha ragione Laura, ha ragione assolutamente, ha ragione Giulia, alla loro riformulazione alla luce degli eventi recenti, insomma, ripensare agli spazi della cultura come luoghi di rinascita. Sono sfide assolutamente importantissime, insomma, la storia ci insegna che con il pensiero utopico c'è la possibilità di fare un passo in avanti, di passare attraverso la siepe, come diceva Federico, attraverso il muro permeabile, per approdare a delle soluzioni che certo apparentemente sembrano impossibili, ma forse possono diventare distopiche, appunto, inteso in senso proprio di risoluzione in termine. Dobbiamo recuperare il coraggio, secondo me, la visione lungimirante. Nell'ambito del progetto dei concerti di Dei in azione nel quinto paesaggio, accompagnando questo testo di cui vi parlavo, ancora, devo dire, abbastanza caotico e delirante, ho provato a sviluppare tre rappresentazioni, ispirandomi fortemente a quelle del Monumento Continuo di Super Studio. Ho pensato a tre scenari diversi, a tre scenari noti e affollati. Il primo, Piazza San Pietro, l'ho intitolato Cerimonia Liturgica, nella quale una selva di mongolfiere in volo, rispettando un rigido ordine geometrico come quello della superficie, quindi dettato dalla scacchiera, si elevano per assistere appunto alla cerimonia. Ho pensato a Woodstock come il primo concerto, no? nel quale la grande folla sistemata sul prato scompare, come in un senso d'abbandono, di rarefazione, per elevarsi ancora attraverso su dei palloni aerostatici, stavolta disposti ovviamente in modo molto più disordinato, assistendo a questo spettacolo mirabolante. Ho pensato allo stadio Azzeca, quello d'Italia-Germania 4-3, in cui gli spettatori diventano dei soggetti sospesi su una griglia sistemata a modo di copertura su questo grande stadio da oltre 80.000 spettatori. Chiaramente sono dei paradossi, ragazzi, sono delle situazioni spinte ai massimi estremi, ma credo fortemente questo serva per fare appunto quel passo avanti, quel passo di penetrazione che occorre per cominciare a sistemare un po' di cose, naturalmente entro un alveo di collaborazione larga, quindi di abbattimento disciplinare, vorrei dire di alleanze. Per ora mi fermerei qui e vi ringrazio. Grazie Massimo. Io, allora, era prevista una traccia a questo punto, però siamo veramente un po' in ritardo e mi piacerebbe che ci fosse poi un po' di tempo per dialogare tra noi. Passerei la parola a Diego Labonia. Però ti faccio una breve introduzione. Diego Labonia cresce nell'era analogica tra transistor, cavi e musicassette, nutrendo un istinto digitale già fin dal Commodore VIC-20 in poi. Sin dal 93 lavora come direttore tecnico luci in spettacoli teatrali, collaborando con numerosi registi, tra i quali Strehler, ma ce ne sono veramente moltissimi. Fa esperienze come direttore artistico e fonda nel 2009 Luci Ombre, una società che fornisce supporto tecnico e artistico a teatri e aziende, distinguendosi per l'organizzazione di eventi culturali non convenzionali. Dal 2015 è fondatore e direttore artistico di RGB Light Experience, primo festival di light art in Italia. A te la parola, Diego. Ciao a tutti, sono molto felice di essere qua presente perché, insomma, tutte le persone che sono intervenute fino adesso hanno veramente portato delle idee, delle sensazioni, delle emozioni, anche una visione, no? Una visione che deve essere quella fondamentale che dobbiamo avere adesso proprio per guardare. Non parlerei tanto di futuro quanto di futuri possibili, quindi userei questo plurale che apre ancora di più la possibilità nel futuro, diciamo. E, sì, la descrizione che hai fatto, io partirei dalla fine, perché c'è, cioè, RGB si può ricollegare un po' a tutto quello che è stato detto fino adesso. Diciamo, è un progetto che nasce nel 2015 fondamentalmente da una mia idea che avevo già da un po' di tempo, visto un po' quello che succedeva in Europa, nelle varie città europee, con i vari festival di light art e di installazioni, e quindi partecipai a un bando che lo vinsi e facciamo questa prima edizione di RGB. Fondamentalmente, diciamo, la filosofia del festival è rimasta invariata, perché ha un approccio abbastanza diverso, diciamo parecchio diverso rispetto a tutti gli altri festival. Intanto si svolge a Roma, però appunto in un contesto cittadino romano che non va a toccare zone che già sono, diciamo, nei millenni toccate da altri artisti e quindi sono già pregne e sono già come dire, all'occhio, diciamo, del cittadino romano e anche del mondo conosciute. Abbiamo deciso di lavorare su un territorio particolare, che è un territorio che si sviluppa in quella che era una ex periferia, adesso oramai è una semiperiferia, se così la vogliamo chiamare, però ha ancora tutto il contesto, diciamo, della periferia. Quindi c'è la parte che si è evoluta, tra virgolette, uso questa parola bruttissima, che però ha avuto un cambiamento, diciamo, antropologico forte, perché è stata, insomma, a un certo punto scoperta dai giovani, anche giovani artisti, famiglie e tutto, e quindi ovviamente ha avuto un cambio proprio di fruizione da parte di chi è andato a abitarlo, e che è il Pigneto. Dal Pigneto si scende giù verso Maranella e Torpignattara, che invece sono due zone, storicamente sono le zone di accoglienza di Roma. Negli anni 50-60 erano le zone dove c'erano immigrati italiani, quindi c'erano tutti i meridionali, calabresi, siciliani, tutto quello che venivano dal sud, che vivevano in baraccopoli, che usavano monumenti o pezzi di mura o di acquedotto romano, che era praticamente la prima parte, diciamo, della parete su cui appoggiare le altre quattro pareti per costruire appunto poi dei villaggi veri e propri. Da lì ovviamente è rimasta questa tradizione, evidentemente è diventato il punto dove etnie che provengono da tutto il mondo si mischiano ogni giorno con un grande senso di responsabilità e con una, devo dire, anche con un grande senso di pace che si può respirare in questo posto, al contrario di quello che molti purtroppo pensano, ma non è colpa loro, è colpa, insomma, di tutta una propaganda che è stata fatta negli ultimi 10 anni nei confronti di Torpignattara e quindi degli immigrati. Quindi, insomma, si è creato questo immaginario che è una delle cose più stupide e più non vere che possa esistere su quel territorio. Ovviamente ci sono le problematiche, ma ci sono le stesse problematiche che ci sono ai Parioli piuttosto che, insomma, a Roma Centro, insomma, non ce ne sono di più. La differenza tra Torpignattara, appunto, e un altro quartiere di quelli che vengono considerati bene è che a Torpignattara le cose le vedi e quindi le conosci e quindi le puoi anche gestire. E questo è, però vederle molte volte diventa un problema, mentre invece quando il problema non si vede, in quel momento non esiste, e quindi l'uomo ha questa capacità di riuscire a come dire, a soggiogarsi da solo pensando che i problemi non ci siano solamente perché non li vede. Vabbè, a parte questa piccola disquisizione politica, RGB tenta di creare appunto un nuovo immaginario tra parti urbane che in sé non hanno nulla da dire da un punto di vista diciamo culturale, anche da un punto di vista anche architetturale, forse architetturale no, però proprio culturale, cioè non ci sono monumenti, non c'è una storia, diciamo, antica sul quale appoggiarsi per poi costruire un immaginario. Quindi ci appoggiamo sulla storia che c'è, quindi palazzoni, parcheggioni, situazioni di cortili che vanno appunto da cortili di case popolari, facciate cieche enormi sul quale poi gli artisti si possono esprimere. Quindi quindi c'è questo sviluppo, questa simbiosi si crea tra l'opera d'arte che viene presentata lungo questo percorso che è di 4 chilometri. E ci sono varie opere d'arte che vengono disseminate lungo questo percorso, gli artisti scelgono lo spazio nel quale agire con varie forme che riguardano fondamentalmente la materia prima, diciamo, la luce, quindi la luce sotto le sue forme, che può essere appunto un oggetto, una proiezione, può essere un'installazione luminosa, può essere un fascio di luce, quindi ognuno poi cerca di trova, diciamo, nel proprio ambito il modo di esprimersi all'interno, diciamo, del festival. L'aspetto interessante che si è sviluppato all'interno del festival è proprio questa incredibile possibilità che si dà allo spazio di usufruire dell'opera d'arte, ma allo stesso tempo l'opera d'arte usufruisce dello spazio, nel senso che c'è ma è un accavallarsi di un rimando uno sull'altro, quindi lo spazio riceve l'opera e ne rimanda un'immagine, quell'immagine viene ricevuta ovviamente dall'opera e ne rimanda un'altra allo spazio, e lo spazio così è un ping pong che va avanti all'infinito. Il pubblico questo devo dire che lo percepisce perché ovviamente c'è qualcosa che non gli torna, e quindi quello automaticamente incuriosisce, perché non stanno dentro a un museo ma è un museo a cielo aperto, quindi riescono a percepire quello che è nell'opera. Alcune volte neanche l'artista riesce a descrivere, perché ovviamente poi il significato che esce fuori è molto molto soggettivo. Questo, diciamo, è una grande scommessa che portiamo avanti, e più volte abbiamo avuto delle richieste di perché non lo fate in centro, perché non lo fate, quelli che ce lo dicono forse non sono mai venuti a vedere il festival, o forse non hanno letto, diciamo, del sito, perché oltretutto è uno spazio che non si esaurisce. Noi pensavamo che dopo qualche anno, adesso siamo alla quinta edizione, questa cosa si sarebbe esaurita, invece no, questa cosa aumenta sempre di più, e la cosa incredibile è che tutti gli artisti internazionali che sono venuti sono rimasti completamente sbalorditi da questa sia dallo spazio, quindi dal territorio, sia dal discorso di come le opere agiscono appunto all'interno del territorio, e di tutto il rimando che c'è ovviamente sul pubblico e le persone che vengono a visitarlo. Questo ovviamente è un po' la cartina di tornasole, perché ovviamente è anche il pubblico che viene, anche il pubblico romano si trova a un certo punto sperduto all'interno di quelle vie che non avrebbero mai dove non avrebbero mai camminato, non ci sarebbero mai passati, sia perché non gli sarebbe mai creata l'esigenza di passare da quelle parti, ma molte volte anche dal fatto appunto che quelle zone fanno parte di un immaginario mediatico completamente distorto, e quindi poi ritornano a casa con un'immagine che ha completamente cancellato le notizie che sono veicolate, diciamo, o che hanno rappresentato quel territorio in quel modo, ovviamente. E quello ovviamente è un'altra grande conquista, forse la conquista principale, insomma, di tutto questo festival, fondamentalmente. Grazie. Continuo ancora. Grazie Diego, grazie mille. Grazie. Sì, direi possiamo continuare a dialogare. Diego, certo. Sei Diego Repetto? Eccomi. Diego. Complimenti a tutti, cavoli. Sì, oggi veramente. È stato veramente un incontro. Io ho preso anche degli appunti, perché ho voluto fissarmelo proprio anche sul foglio, alcune cose che sono state dette, ma veramente quanta immaginazione e che meravigliose visioni, direi, no? Prego Diego Repetto, devo aggiungere il cognome. a sentirvi tutti mi è venuto in mente il termine Ichinen, deriva dal buddismo. Vi leggo un pezzo, se me lo concedete, preso da Buddismo e Società numero 168 del 2015, è una rivista buddista. Cosa vuol dire Ichinen? Questo termine descrive un concetto incredibilmente profondo che riguarda la relazione tra l'oggetto e il soggetto, tra la realtà e chi si mette in relazione con tale realtà. Una teoria che per inciso trova riscontro nella scienza moderna, la quale, rendendosi conto che soggetto e oggetto sono inseparabili e che anche i risultati dell'osservazione scientifica sono determinati dalla relazione tra chi osserva e ciò che viene osservato, si è vista impegnata a formulare un nuovo modo di leggere, studiare la realtà. La parola Ichinen si può tradurre con mente o nel senso più ampio vita. A me viene proprio in mente che tutta questa creazione di dialoghi che stiamo facendo e che mi auguro che si amplificheranno oltre a noi, ecco, cioè, e che tanto sto vedendo anche tramite i social e leggendo i giornali, eccetera, che c'è questa intenzione proprio di costruire il dialogo, di rendere ancora più forte l'ascolto. E quello, secondo me, anche un po' come si visualizzava Massimo con il discorso di questa architettura pneumatica che sale su e ti permette di interagire cambiando il punto di vista, ecco. L'operazione fatta da Diego. Io l'ho conosciuto l'anno scorso e sono rimasto veramente sbalordito che in Italia ci fosse una realtà del genere, cioè più che altro in quei luoghi lì, perché effettivamente sono distorti dai media e dai luoghi comuni, diciamo così, ecco. E questo modo di cambiare punto di vista mi piace tantissimo e questo è un po' veramente la direzione che stiamo prendendo, e penso che il fattore di questa botta pandemica abbia messo in crisi determinati fattori anche economici, che quindi ci mette nelle condizioni di dover per forza rivedere determinate situazioni che non andavano più, che non sono più contemporanee e sono diventate anacronistiche. È bellissimo, complimenti a tutti, veramente. Diego, grazie di questa cosa dell'Ichinen che dici, no? Perché io ho notato un po' nel mio lavoro che tutte le volte che le persone si predispongono a un'attitudine, a un atteggiamento di relazione, no? Come tu dicevi prima, si perde in qualche modo quella pigrizia da contenitore, la chiamo io, no? Cioè, tanto c'è già un contenitore, tanto mi accolgono in quel modo lì, tanto ci sarà il palco, vabbè, io parlo per il mio lavoro, ma immagino voi possiate adattare l'esempio, no, alle vostre professioni, nel senso che tutto dove invece la mente è obbligata, ne parlavamo anche prima in chat, no, fra noi, è obbligata a fare quello sforzo per cui non dare per scontato niente, non restare nell'abitudine, no? Ma tentare vie diverse, come dire, in realtà potremmo farlo sempre, anche dove il contenitore è super figo, è già attrezzatissimo, anche dove tutto sarà stra in discesa e agevolato, no? Cosa che fra l'altro non sempre capita, anzi spesso, no, uno si trova poi a che fare con gli imprevisti, eccetera, quindi poi il nostro lavoro diventa anche interessante, no? Per questo, però proprio forse la mente stimolata, mi vengono in mente anche i miei studi, vabbè, di storia dell'arte del liceo, che mi piacciono tantissimo, ho dato anche un esame all'università su questo, cioè il fatto che moltissimi artisti del 600, soprattutto nel barocco, ma credo anche in altri periodi, siano stati costretti a in qualche modo decorare spazi con edicole già esistenti, no? Con delle spaziature già decise, non da loro, e questo abbia stimolato immensamente, no? La loro creatività, perché sono nati secondi fondali, cieli dove non c'erano, dove c'era il soffitto piuttosto che, no? Per cui mi sarebbe piaciuto lanciare un po' la palla, no? Di questa sfida, cioè vedere dove le nostre professioni possono venire arricchite laddove c'è un limite, no? La parola stessa limitis, ne parlava già Cesare, no? Quando arrivò in Inghilterra, cioè può essere o una chiusura, un muro, o la famosa storia dei confini, o poi vivendo nelle Alpi lo vediamo moltissimo questo, no? Il confine fra Italia e Francia spesso è agevolato dalla montagna, non è vero che è chiuso, no? Dall'inferriata della montagna. Grazie, bellissimo, grazie. Bellissimo. Mi sembra che ci fosse Daniela. Daniela, mi senti? Daniela? Sì, ti senti. Ecco, già ci sarebbero tante cose interessanti da dire, tanti stimoli, mi piacerebbe ascoltarti, insomma. Sì, allora, veramente, tantissimi stimoli da tutti, è stata una mattinata veramente densa. e diciamo che mi sono sentita sempre di più a mio agio, no? Sono partita molto agitata per questa mia prima esperienza in una radio, ma veramente trovarvi e parlare di tutti questi argomenti mi ha reso veramente a mio agio. No, io volevo riprendere un attimo il discorso che aveva fatto Laura. Volevo cogliere un attimo lo stimolo del ponte tra le due discipline, tra la musica e l'architettura, che apparentemente sono così lontane, no? Perché la musica è proprio la disciplina più eterea, l'architettura invece è teoricamente quella più pragmatica, no? Quella fatta di spazio e di fisicità. E invece, secondo me, c'è tanta relazione che diventa anche difficile parlarne poi così verbalmente, no? Perché invece è una relazione che si deve vivere, quella tra musica e architettura. Però anche il fatto proprio dell'ascolto, no? Che è una cosa principalmente uditiva, che è proprio principalmente della musica, va trasportata all'architettura. Noi dobbiamo abituarci ad ascoltare e ad ascoltarci, nel senso ascoltare quello che lo spazio ci trasmette e capire ed ascoltare le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Dobbiamo abituarci a vivere lo spazio, non solo passivamente. Dobbiamo abituarci dobbiamo educarci ad ascoltare lo spazio. E questa relazione tra la musica, tra il suono e l'architettura, no? Quando Laura parlava e diceva non sono competenti in architettura, qua non vogliamo trasmettere delle competenze specifiche in una materia, no? Mi sento che dobbiamo proprio compenetrarci tra le varie discipline, parlare di emozioni. Bravissima, scusa. Ecco, e questo è stato veramente un grande stimolo che, ecco, secondo me va colto e va sviluppato. Grazie Daniela, prezioso questo tuo intervento come tutti i precedenti di questa mattina perché è stata, confermo, veramente un incontro molto molto denso di contenuti, di sensazioni e di emozioni e ci dà motivo di riflettere e continuare ad approfondire. Chi ha piacere ancora di intervenire a questo punto? Chi Io vuole? vorrei dire una cosa, se Sì? posso, Sì, ma Federico, molto, molto grazie. veloce. Grazie. Riguardo alla transdisciplinarità, in un certo senso, io comincerei a dare per scontato, almeno tra di noi, che questo linguaggio transdisciplinare lo abbiamo. Non perché sia vero, ma perché metodologicamente è un ottimo sistema per andare avanti e poi cominciare a usarlo. Cominciare a usare è già un modo di creare. Riguardo all'architettura e alla musica, poi mi viene in mente Goethe, no? La sua idea che l'architettura fosse musica congelata. Congelare la musica non è una grande idea, però mi piace come immagine. Quindi anche abbastanza romantica, ma anche abbastanza lontana nel tempo, no? In un tempo in cui questa transdisciplinarità era data per scontata. Goethe è un poeta, è un drammaturgo, è uno scienziato, scrive sul colore, che poi tra l'altro è una delle cose di cui abbiamo parlato all'inizio. Tutte queste coincidenze mi fanno molto piacere, ecco. Quindi solo questo, io comincerei a far finta che abbiamo già un linguaggio comune. E quando non ci capiamo, ci sorridiamo e ci spieghiamo meglio. Grazie Fred, grazie Federico. Passo, passo, posso intervenire un attimo su Sì, questa? sei Giulia? Sì, sono Sì, Giulia. ciao, prego Giulia. Allora, intanto grazie a tutti, ovviamente, veramente per questo filo, no? Che ci collega in maniera così nitida, poi credo per tutti noi. Perché, appunto, come appena citato Goethe il discorso del rapporto architettura-musica c'era Leon Battista Alberti che diceva, no? Di studiare la musica per comprendere l'architettura e quindi è proprio una questione di ritmo. È una questione di ritmo, di spazio, il ritmo diventa modello, il modello può diventare tipo e diventa comunque tutta scusatemi, un'interpretazione dello spazio, ma come la leggiamo? Con un linguaggio comune. Il linguaggio comune è quello dell'immagine e della percezione, che è un linguaggio immediato, cioè rispetto al nostro linguaggio, no? Che siamo abituati ad usare per parlare e comunicare. L'immagine e la percezione sono immediati, non hanno bisogno di traduzioni, semmai ci danno la possibilità di interpretare e quindi di elaborare in maniera anche intuitiva e immediata un laboratorio ideativo, creativo dentro ognuno di noi. E tutto questo ci collega appunto tramite la capacità di un dialogo immediato, di un dialogo intuitivo, che è quello che abbiamo questa mattina, no? Io personalmente non conosco nessuno di questi amici con i quali sto parlando se non Diego, però mi trovo in assoluta sintonia nella necessità appunto di vedere oltre e quindi nella capacità di ritrovare bagagli culturali passati come le avanguardie, che è un esempio anche abbastanza banale, che però ci consente veramente di trovare un punto di incontro in tutte le discipline che convergono sulla percezione e sullo stare bene, come la luce che ne abbiamo parlato prima. La luce in automatico ci consente di eliminare il peso delle architetture, il peso reale. Quindi insomma è un discorso che mi piacerebbe affrontare con voi anche più avanti. Grazie veramente, grazie a tutti. Grazie a te Giulia, grazie mille. Grazie Giulia, e fra l'altro tu parlavi di luce, no? A me veniva in mente che forse non a caso, non so, forse è un caso che oggi siamo per lo più musicisti e architetti, no? Perché in effetti tu prima, Daniela, dicevi sono le arti più distanti nel senso classico dei sensi che utilizzano, no? E io tante volte mi sono ritrovata a dover sostituire spazialità che non c'erano tramite la voce, la gestualità, no? Quindi con cose che vengono percepite anche visivamente, ma soprattutto uditivamente, no? Essendo io musicista per lo più, e poi vabbè, il gesto artistico, quindi c'è anche l'aspetto visivo, no? Sul palco, però diciamo che può essere interessante proprio vedere, visto che l'architettura lo fa tantissimo questo, no? Soprattutto ultimamente, di tentare di sostituire la vecchia visione solo di massa che dicevi prima con una visiva, quindi con appunto invece interpretazioni dei colori, delle luci, e quindi immergersi in degli spazi in modo diverso, no? Usando stimoli non solo visivi e spaziali, no? Cercando di sostituire questa priorità che per secoli ha avuto la massa, no? I corpi, no? Intendo. E dall'altra parte noi musicisti ci stiamo avvicinando a fare quella, ci stiamo avvicinando in realtà, se pensiamo alla commedia dell'arte nel 600 lo facciamo da sempre, no? Dovevano crearsi uno spazio che non c'era, in una piazza che non aveva nessuna parete, o se erano fortunati aveva magari una chiesa, quindi potevi fare spalla e avere solo tre lati di pubblico, no? Per cui, come dire, sarebbe veramente interessante capire quali nuove discipline possono nascere da questo, no? Io immagino proprio una nuova disciplina che si occupi della sostituzione, però il discorso del limite che faceva Diego prima, no? Se questo contenitore non c'è più, questo baratro che cosa ci porterà in inventarci, perché poi l'uomo sa, no, rinnovarsi egregiamente, l'ha fatto in situazioni molto più disastrose e della perdita dei confini rispetto a oggi, no? Penso alle guerre, penso a dover ricostruire delle città da capo, no? Quindi bene, molto bene, ci sarebbe da andare avanti ancora per molto, però vorrei sentire proprio una parola, due parole da Massimo e da Diego Labonia, se avete piacere. Sì, sì, certo. No, figurati. Certo. Diego, ti lascio. Perché siamo già ampiamente fuori il tempo. No, intanto, intanto appunto sicuramente oggi diciamo in questo periodo pre post e durante pandemico ormai non si capisce più appunto dove stiamo, ma questo è fondamentale proprio per trovare e essere stimolati. Dicevo questo perché appunto oggi insomma questo incontro virtuale, cioè di queste voci che vengono da vari punti dell'Italia, penso, che hanno tutti una visione, un tono, direi proprio un piccolo movimento comune. Sì, l'avanguardia, guardiamo l'avanguardia, ma forse facciamola l'avanguardia, incominciamo a non guardare più quello che c'è stato, cominciamo a guardare quello che dobbiamo fare, vogliamo essere. E questo è un po' quello che mi viene da dire adesso, perché molte volte purtroppo io combatto con norme e funzionari e vedo che la società è sempre più una norma e fatta da funzionari. Io penso che una società dove l'uomo è non al centro, ma è una parte della società, noi come uomini dobbiamo metterci dentro non solo le norme funzionari, come stanno facendo da ormai millenni, ma inserire appunto quello che è lo stimolo, la sensibilità, la visione, l'educazione, la partecipazione, eppure proprio quello che riguarda la consapevolezza. Cioè queste sono le parole importanti che dovrebbero stare, ecco, in uno stato generale. Io ci metterei queste persone qua, poi sì, ci mettiamo anche i funzionari e ci mettiamo anche le norme. Grazie Beh. Mille. Massimo, proprio credo, due parole, se ti fa bene, piacere. Bene, no, allora credo che l'incontro di oggi costituisca di fatto un modello di per abbordare alle questioni di cui insomma, siamo tanto concentrati, che a cui teniamo tantissimo, quindi andrebbe ovviamente diffuso anche a livello applicativo. Io credo che appunto il progetto che Diego sta perorando sia un'ottima occasione, no, per misurare sul campo quanta efficacia abbia questo tipo di riunione di pensieri. Parlavo prima di alleanze. Naturalmente l'alleanza che cosa significa? Prevede coraggio, perché l'alleanza presuppone l'abbattimento delle barriere disciplinari. L'abbattimento delle barriere disciplinari non è una questione tanto facile da risolvere, come molti di noi sanno, perché è una struttura concresciuta negli anni, direi nei secoli, e che ha distinto appunto i fari in modo definito e definitivo a volte. Quindi diciamo l'abbattimento delle barriere disciplinari è il primo presupposto, secondo me, per poter cominciare a discutere su una piattaforma comune. Abbiamo visto che in tutti noi la visionarità è il presupposto progettuale, quindi io terrei fermi questi due punti, cioè alleanze e visionarità come piattaforma di partenza comunitaria per cominciare a misurare sul campo le nostre idee e confrontarle evidentemente con quelle degli altri. Grazie a tutti. Grazie. A questo punto io devo veramente chiudere. Intanto ringrazio Giuna che ci ha lasciato spazio e adesso interverrà direttamente con la sua diretta su Radio Antidoto. Grazie mille Giuna. E grazie Giuna. Tutti gli ospiti che ho fatto un riepilogo, correggetemi se ho dimenticato qualcosa. Roma, Lago di Como, Genova, Pisa, viaggio dalle Langhe alla Riviera Ligure, Campagna Laziale e Torino, quindi insomma veramente un po' dispersi in tutta Italia. Io direi che insomma gli argomenti sono tutti aperti e uniamoci e apriamoci alle alleanze, insomma, è il punto di partenza per da adesso in poi. Anche se l'abbiamo già sperimentato, lo stiamo sperimentando, comunque secondo me è da tenere ben presente. Saluto tutti, vi ringrazio e Francesco direi di passare l'ultima traccia di Laura e poi passare direttamente la linea, proprio un minuto, e così Giuna può andare in diretta. grazie ancora a tutti, un abbraccio e ciao a tutti. E ciao, ciao. Grazie. Grazie a tutti ragazzi, grazie. Ciao. Sono tutti invitati a trasmettere su Radio Antidoto. Ciao. Dai, ci vediamo al quinto ci vediamo al quinto episodio. Al quinto episodio di Concerti di Idee, ok? A presto, ciao. Un bacio a tutti. Ciao. Grazie Cristina, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Io destino innamorarmi di ciò che ancora non c'è, della gemma delle cose non attuate, visi che potrebbero essere più belli, spiriti subito più indomiti, più indomiti. Mio respiro è amarla a bagno, ciò che ancora non c'è. Il momento dell'incrocio, la matrice.